Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Io quando mi metto questa coppola... non applausi, ma opere de bene. Non vi viene di esclamare minchia dopo questo suono? Vi prego, io vi faccio il suono e voi esclamate, via. L'avrete riconosciuto, questo è Fiorello che prende in giro la Sicilia, o meglio i siciliani nella loro tradizionale immagine. E di questo vi voglio parlare, di un libro che vuole smontare e rovesciare tutti i luoghi comuni e i cliché sulla Sicilia. Dice l'autore, poi vi dirò chi è: non ne posso più di Verga, di Pirandello, di Tomasi, di Lampedusa, di Sciascia, di Guttuso, non ne posso più di Vinti, di Uno Nessuno e Centomila, di Gattopardi, di Uomini, Mezzuomini, Ominicchi, Pigliancule, qua. E sono stato di Godfather, prima e seconda parte, di Sedotte abbandonate, di Divorzio all'italiana, di Marescialli sudati e Baroni in lino bianco. Sono stufo di Palle di fichi d'India, colori accesi e quarti di manzo appesi alla vucciria. Non ne posso più della Sicilia, non ne posso più della Sicilia immaginaria, costruita e ricostruita dai libri, dai film, dai quadri, dalla fotografia in bianco e nero. Questo è Gaetano Savatteri, che ha scritto Non c'è più la Sicilia di una volta, pubblicato dalla Terza, 262 pagine, 16 euro. L'autore è un giornalista milanese di nascita, cresciuto in Sicilia, oggi romano, che naturalmente non vuole rinnegare la Sicilia, ma sottolineare che non si può rimanere ancorati per sempre alla memoria, per quanto illustre e luminosa. La Sicilia è cambiata, e soprattutto è cambiata 25 anni dopo l'uccisione di Falcone Borsellino, quella che abbiamo ricordato e stiamo ricordando in queste settimane, l'uccisione dopo la quale si manifestò comunque una reazione alla quale seguì un altro fenomeno meno cruento e non meno significativo, ossia il successo di Andrea Camilleri, che nonostante la freddezza iniziale di molti critici illustri riuscì a riproporre la possibilità di narrare la Sicilia anche sotto forma di noir o poliziesco in uno spazio sociale in cui la mafia non è preminente. E di questa nuova Sicilia allora ci parla adesso l'autore Gaetano Savatteri, che ha scritto questo libro seguendo alcune tappe delle quali parliamo adesso con lui. Buonasera a Gaetano Savatteri. Buonasera a voi. Gaetano Savatteri, innanzitutto come pensa di poter descrivere questa Sicilia che non è più quella di una volta, che rompe i tabù e i cliché di una volta? Ma sicuramente la posso descrivere pensando a tutto quello che si muove attualmente in Sicilia, il teatro, l'arte, il cinema, che racconta una Sicilia moderna, una Sicilia che c'è, una Sicilia che non è più che soltanto quella di Sciascia, di Pirandello, di Verga, di Brancati, grandissima, ma che è una Sicilia del passato. E a questo proposito lei sottolinea il contrasto che c'è, la cito, tra chi vive nell'isola pensando che tutto sommato sia il migliore dei mondi possibile e chi ci vive ritenendo di stare all'inferno. Anzi, aggiunge, l'antisicilianismo, perché di questo lei tratta, comincia ad essere un nuovo blasone distintivo, un lessico diverso e moderno di professare il proprio amore per l'isola parlandone male. Ecco, come si manifesta questo antisicilianismo? Mi pare di capire positivo in questo senso. Sì, c'è una rabbia naturalmente incarnata da alcuni scrittori come Pietrangelo Buttafuoco, come alcune uscite di Gian Piero Mughini, che è un siciliano che dice di non volerlo più essere, come Fulvio Abbate, ma è anche un sentimento abbastanza condiviso di molti che stanno in Sicilia sentendosi appunto un po' prigionieri, intrappolati in quell'isola e manifestano il loro amore con un po', voglio dire, di indignazione, come spesso si fa con una donna che si ama ma che la si vorrebbe diversa. A proposito di donne, uno dei miti che lei rimette in discussione in questo libro è quello del machismo siciliano. Sì, perché poi c'è il machismo, c'è stato sicuramente, c'è il gallismo di Brancati, però questa è un'isola dove è nata la prima sezione in Italia dell'Arcigay. È un'isola che ha eletto alle ultime elezioni un presidente della regione dichiaratamente omosessuale, e non è ancora questo il tema del dibattito, se sia stato un buon presidente o un cattivo presidente. Quindi vuol dire che quel machismo, quel gallismo, quella cosa lì non c'è più, e ci sono invece tanti anche racconti, libri e film che raccontano di omosessualità perfino dentro un luogo dove apparentemente non dovrebbe esserci, che era la mafia siciliana. Abbiamo parlato poco fa della categoria degli antisiciliani. Un'altra categoria che lei presenta e propone è quella dei de-sicilianizzati. Chi sono i de-sicilianizzati? De sono quelli che raccontano la Sicilia addirittura fantascientifica. Pensiamo ad esempio, non è siciliano, ma l'ultimo libro di Ammaniti, Anna, è ambientato nella Sicilia fantascientifica, ma ce ne sono tantissimi altri. Ad esempio c'è un libro scritto da Stefano Amato, un giovane scrittore, che racconta di una Sicilia che nel frattempo è diventata la 49esima stella della bandiera americana, una colonia americana, e scoppia una rivolta perché questi siciliani americani che parlano inglese vogliono tornare a unirsi al resto d'Italia. Quindi c'è anche una Sicilia, diciamo, di fantapolitica, di fantascientifica, che è molto lontano dallo standard del carretto siciliano, del nobile, del contadino, quello insomma che conosciamo. E a questo proposito lei sottolinea l'importanza della metropoli, della grande città, per esempio racconta a fondo dell'innamoramento di Pippo Fava per Catania. Che cosa rappresenta questo valore metropolitano per la Nuova Sicilia? Ma innanzitutto noi sappiamo bene che nella filmografia famosa, ma anche nei grandi libri, la Sicilia era fatta di paesi. Per molti anni la Sicilia ha avuto al centro il paese. Pensiamo al Giorno della Civetta, al Divorzio all'Italiana, tantissimi film dove il paese era tutto: la caserma dei carabinieri, la chiesa, il nobile, la sezione della DC, la sezione del PC. In realtà in Sicilia ci sono delle grandi città, Messina, Palermo, Catania, lo sono, e ci sono degli scrittori che raccontano, come per Giorgio Di Cara, Roberta Laimo, Giusto e Caracciura, Nadia Terranova, che raccontano queste città, una Sicilia metropolitana, non più paesana, non più agricola, una Sicilia con tutte le contraddizioni delle città. Addirittura per Giorgio Di Cara ha scritto un libro che è Hollywood Palermo, quindi una specie di Los Angeles, una specie sotto Monte Pellegrino. Una parte importante del suo libro naturalmente è dedicato all'immigrazione che oggi la Sicilia riceve, e questo fenomeno tuttora in corso e che è apparentemente inarrestabile, quanto ha contribuito a cambiare non solo in Italia l'immagine della Sicilia? Ma nel mondo direi che Lampedusa è diventata un simbolo, ci sono stati dei film, ci sono stati dei racconti, dei reportage giornalistici. È evidente che Merca, Pirandello, Sciascia non potevano raccontare questa Sicilia perché non c'era, era una Sicilia casomai di emigrazione e non di immigrazione, quella che raccontavano loro. Questo sicuramente, i nuovi flussi hanno sviluppato un racconto, soprattutto appunto cinematografico, penso a Fuoco a Mare o a certi film di Crealese, che è assolutamente inedito, non solo in Italia ma in Europa, tant'è vero che la Sicilia è considerata, con tutte le contraddizioni, un luogo di accoglienza. Alla fine lei esplicita di non voler rinnegare il passato, infatti scrive: non possiamo fare a meno di Verga, di Pirandello, di Tomasi di Lampedusa, di Sciascia, di Guttuso, eccetera. Senza di loro saremmo più poveri, più fragili e più deboli nell'interpretare il presente. Però lei sottolinea il rischio che tutta questa tradizione, questi nomi, questa storia diventino anche degli alibi. In che senso? Ma ad esempio penso soltanto alla frase «tutto cambi perché nulla cambi», frase nella quale condensiamo un grande libro come Il Gatto Pardo. È diventato questo l'alibi di chi veramente non vuole cambiare nulla, perché se nulla può cambiare allora tanto vale nemmeno tentarci. È diventato l'alibi della politica, è diventato l'alibi di una classe dirigente, è diventato l'alibi anche di alcuni intellettuali che dicono: non c'è bisogno di sforzarsi di capire la Sicilia di oggi perché è stata descritta così bene nel passato che ormai è immutabile, è solo quello. Io dico, sono grandi artisti e grandi scrittori, abbiamo avuto dei talenti eccezionali che sono patrimonio dell'Europa, non della Sicilia, questi grandi scrittori, ma non sono le guide turistiche della Sicilia di oggi. Non si può mettersi sotto il braccio il Gattopardo e andare in Sicilia pensando di trovare un principe di Salina ad ogni angolo di strada. Grazie a Gaetano Savatteri, autore di Non c'è più la Sicilia di una volta. Buona serata. Grazie a voi. Nel libro di Savatteri un capitolo è dedicato a una grande tradizione culturale siciliana, ossia il romanzo storico, e ne esce adesso una nuova testimonianza di Simona Loiacono, che è un magistrato di Siracusa già alla seconda prova letteraria. Il libro si intitola Il Morso, è pubblicato da Neri Pozza, 238 pagine, 16,50 €. Qui siamo a Palermo nel 1847, dove arriva la protagonista Lucia, presa a servizio in una famiglia nobiliare con grandi speranze della famiglia di origine, che vede questa assunzione come come una grande opportunità. A casa Lucia è considerata una matta perché soffre di epilessia e nella casa che l'accoglie Lucia non cederà facilmente all'assalto del nuovo padrone, il giovane conte Ramacca, che nella serva cerca soltanto una consolazione sessuale. Ma la reazione di Lucia sarà imprevedibile, mettendo in moto un percorso che farà della protagonista un'eroina della rivoluzione siciliana dell'anno successivo, del 1848. E l'eroina poi si spegnerà in un manicomio considerato per la verità esemplare per l'epoca. E il personaggio di Lucia è autentico, un personaggio storico, ed è comprovato il suo ruolo nei moti del 1848. La finzione letteraria della Lo Iacono qui aggiunge spessore ed emozione a una vicenda che era rimasta confinata in poche righe dei libri di storia. Ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Vi presento adesso un libro di cui avrete certamente già molto sentito parlare nelle scorse settimane, quello di Ferruccio De Bortoli, giornalista famoso che è stato direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, che ha scritto Poteri Forti o Quasi, memorie di oltre 40 anni di giornalismo, pubblicato dalla Nave di Teseo, 334 pagine, 19 euro. I giornali hanno molto parlato nelle scorse settimane delle quattro righe dedicate nel libro alla ministra Boschi e al suo interessamento per una soluzione al caso della Banca Etruria. Su queste righe è stato già detto tutto, il contrario di tutto, ed è un peccato che l'attenzione si sia soffermata solo su queste quattro righe, perché il libro di De Bortoli è, al di là di questo episodio comunque molto interessante, è molto significativo. Il libro racconta infatti la carriera di un giornalista importante, descrive in particolare il mondo della finanza e dell'impresa italiana e le ramificazioni di questo mondo con la politica. E di questo appunto De Bortoli parla nelle prime tre parti di questo libro. L'ultima, la quarta, raccoglie una serie di ritratti di personaggi che più lo hanno impressionato nella sua lunga carriera. Non c'è soltanto la memoria e la cronaca però in questo libro. Come vi dicevo, si parla molto del capitalismo italiano e i giudizi su questo capitalismo sono meditati e spesso acuminati. Un paragrafo si intitola addirittura Miserie molte, nobiltà poche del capitalismo italiano. E parlando in questo capitolo dell'imprenditoria privata, De Bortoli scrive che spesso questa imprenditoria chiedeva a gran voce privatizzazione e libertà dei mercati e poi si sarebbe rifugiata volentieri negli ex monopoli pubblici, come a ripararsi da una concorrenza internazionale per la quale timore. E quindi ammette che si sarebbe egli stesso accorto più avanti a privatizzazioni avvenute, in larga parte per le necessità stringenti del bilancio statale, che non pochi tra gli imprenditori privati avevano mutuato i difetti della politica, ovvero, spiega, la logica dello scambio dei favori a discapito delle ragioni del mercato e della concorrenza. Ma anche sulla politica De Bortoli in molti punti è davvero esplicito. Renzi è descritto con queste parole: un grande comunicatore, ma forse lo è persino troppo, ha creato egli stesso un gigantesco groviglio del quale alla fine è rimasto prigioniero. In ogni singolo messaggio, in ogni singola apparizione è stato diretto ed efficace, qualche volta anche simpatico. L'insieme della sua comunicazione è risultato invece eccessivo, sovratono e insincero. Un torrenziale discorso pubblico conclude che ha prodotto una cacofonia indigesta. E il libro è naturalmente un grande atto d'amore per il mestiere che ci accomuna, quello del giornalista, il cui ruolo, il ruolo del giornalismo di oggi, così De Bortoli descrive nelle prime righe del suo libro. Il giornalismo non si esaurisce per fortuna nel furto di dati, in un'attività di intelligence o di semplice ricettazione. A maggior ragione oggi che le informazioni sono in teoria tutte a portata di mano, è necessario indagare, confrontare, analizzare, mossi da due infallibili carburanti, la curiosità e il dubbio. Un altro giornalista e saggista appassionato del suo mestiere è Giuseppe Marcenaro, che pubblica un insolito libro che si intitola Scarti, appunti, lettere, scartafacci, viaggio nel regno indimenticato della letteratura. Questo è pubblicato all'Assaggiatore, 302 pagine, 19 euro. Sollecitato a completare un saggio che non vuol decidersi a scrivere sulla spazzatura, Marcenaro rivolta tutto il materiale e la documentazione che ha raccolto negli anni in casa propria. Quel fondo, quella miniera, si rivela un deposito straordinario di curiosità, di erudizione, e qui ne troviamo un completo e appassionante inventario che va da una ricevuta del 1816 per l'acquisto di bretelle e collette a Parigi fino alla testimonianza di uno dei più sinistri, così lo definisce, racconti di uno dei maggiori scrittori di racconti italiani, cioè Tommaso Landolfi. Le curiosità nel libro sono innumerevoli e sono accompagnate da molte riflessioni su molti temi. Per esempio, in Latinorum Marcenaro apprezza il tentativo, temo, aggiungo io, frustrato di Benedetto XVI di tornare alla messa in latino, ma teme anche che pure l'italiano stia per fare la fine del latino. Tra qualche anno, scrive, si ridurrà al culto di pochissimi. A quel punto il bel paese avrà perduto la propria identità. Un altro giornalista famoso è Piero Angela, volto notizio ai telespettatori per le sue trasmissioni di divulgazione scientifica, che si racconta nel libro Il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute, pubblicato da Mondadori, 224 pagine, 19 euro. Qui si parte addirittura dagli anni della giovinezza di Angela, quasi 90 anni fa, un periodo in fondo infinitesimale nella storia dell'uomo, questi ultimi 90 anni, nel quale però sono stati dei compiuti, dei progressi impressionanti, dice infatti Angela, che guardando a quegli anni vengono i brividi a pensare che quasi non esistevano farmaci per curarsi, non c'erano gli antibiotici e le infezioni potevano essere letali. Anch'io rischiai di morire di polmonite quando avevo poco più di un anno, ad altri non andò altrettanto bene, un mio compagno morì di tifo a 12 anni, aggiunge, anche gli interventi chirurgici erano decisamente poco raccomandabili, e così via. Insomma, una grande transizione comincia da allora, che qui Angela descrive e racconta, per concludere riconoscendo di essere stato molto fortunato a vivere in questo secolo pieno di problemi, sì, ma anche di bellezza, di umanità e di cose straordinarie. E naturalmente anche in questo libro non mancano episodi di vita vissuta particolarmente significativi, per esempio questo che adesso vi faccio leggere, che ci presenta un episodio con protagonista un attuale importante leader politico. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Beppe Grillo era stato cacciato dalla RAI dopo aver preso parte a numerosissime trasmissioni di successo per una battuta sui socialisti che non gli era stata perdonata. In quel periodo si era inventato degli spettacoli ecologici in teatri tenda, denunciando gli inquinamenti di ogni tipo che stavano avvelenando aria, acque, terreni e coscienze. Erano spettacoli molto creativi, fatti come solo lui sapeva fare. Un giorno lo incontrai casualmente nella hall di un albergo, credo. Ci salutammo e mi venne un'idea. Gli dissi in sostanza: perché non facciamo qualcosa insieme? Se lei è d'accordo, potremmo registrare il suo spettacolo e scegliere di comune accordo 3 o 4 brevi sequenze, ognuna su un argomento diverso. Partendo da queste denunce, potremmo abbinarle ogni volta a un nostro servizio che riprenda l'argomento con un taglio scientifico, in modo da avere un quadro più completo. Per Grillo era un modo per tornare a parlare al suo pubblico, per noi un modo attraente per parlare di ecologia. Mi parve interessato e mi disse che ci avrebbe pensato. Qualche giorno dopo mi telefonò dicendomi di no. Non gli chiesi le ragioni, ma secondo me fu un'occasione persa. Forse temeva che la verifica scientifica avrebbe smorzato l'effetto teatrale delle sue argomentazioni. Con De Bortoli abbiamo parlato di poteri quasi forti, allora parliamo di quando il potere era forte veramente, per esempio ai tempi di Luigi XIV, di cui è uscita un'interessante biografia scritta da uno dei più noti storici contemporanei, l'inglese Peter Barker, Il Re Sole, pubblicato dall'Assaggiatore, 346 pagine, 27 ore, tradotto da Lucio Angelini. Questa è una biografia avvincente, visto lo spessore del protagonista, che fu re di Francia niente meno che per 72 anni, ma soprattutto il libro è interessante perché vuole offrirci qualcosa di diverso rispetto alle tradizionali biografie, che del resto potrebbero aggiungere poco a quello che già non si sa su Luigi XIV. E Barchi qui infatti vuole studiare un aspetto molto moderno che ci rende quasi contemporaneo Luigi XIV, e cioè il tema dell'immagine, di quanto lavorò Luigi XIV sull'immagine, sulla propria immagine pubblica e sull'immagine che gli altri ebbero di lui. E quindi questo è un libro di storia, ma anche di storia della comunicazione, visto che in questo ambito il Re Sole fu un maestro insuperato, possiamo dire, vista la cura che dedicò alla costruzione di un'immagine simbolica che gli valse appunto il titolo di Re Sole. Con la propaganda, con la sua propaganda, Luigi XIV cercò e riuscì a plasmare quella che oggi chiamiamo l'opinione pubblica. E qui abbiamo un altro segno della grande attualità della sua esperienza. Quindi nel suo operato non c'è solo vanità e manipolazione, ma un autentico tentativo di consolidamento dello Stato. E quindi qui non si parla soltanto di intrighe e di battaglie, ma soprattutto di persuasione, di rituali, di affermazione del sovrano, di costruzione del potere, ed è perciò particolarmente istruttivo leggere le ultime pagine nelle quali lo storico descrive appunto molte vicende a noi vicine, per esempio le elezioni negli Stati Uniti o il consolidamento del potere sovietico, alla luce proprio dell'esperienza del Re Sole. E a questo punto il confettino. Una bellissima immagine che riprende quella forse più tradizionale del Re Sole troviamo nel libro Zip, Vestiti per tutte le stagioni, di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis, pubblicato da Franco Cosimo Panini, 64 pagine, 16,50 euro. Questo è un libro curioso e divertente sulla storia dell'abbigliamento e sugli obiettivi che le mode vogliono raggiungere. Per esempio, quando si parla di jeans, troviamo nel libro Garibaldi, che l'indossò nello sbarco di Marsala, o appunto troviamo il Re Sole, che inventò, pare, i tacchi per sembrare più alto di quanto non fosse e quindi appunto consolidare la sua immagine. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione Paolo Corleoni, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.